Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Affronteremo più avanti l'Alitalia, perché oggi è una giornata importante per Alitalia, ma soprattutto sono usciti anche alcuni studi, uno di Pricewaterhouse sui conti di Alitalia. Secondo l'Agenzia Internazionale di Certificazione di Bilanci, Alitalia avrebbe 60 milioni di euro di perdite in più, non contabilizzate correttamente, quindi il 2013 si chiuderebbe quindi con 243 milioni di euro di perdite. Poi però c'è il fronte all'Italia in senso stretto. L'Assemblea ordinaria di Alitalia ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, ha confermato Roberto Colaninno presidente e Gabriele Del Torchio amministratore delegato, nominato quest'ultimo anche vicepresidente, con una nuova compagine azionaria, visto che Intesa San Paolo è il primo socio con il 22%, poi però le Poste Italiane sono di fatto il secondo socio dell'Italia con il 19% e Air France KLM scende, visto l'aumento di capitale, al 7% come quota. E poi c'è attesa per la mossa degli Emirati Arabi, ossia Abu Dhabi, ossia Etihad, che punterebbe a diventare il primo azionista comprando il 49% di Alitalia, mettendo sul piatto 350 milioni di euro. Le voci invece di un interessamento di Etihad per Aeroporti di Roma sono state smentite, perlomeno a livello ufficiale. Parleremo anche di Fiat, perché si è aperto il salone dell'auto di Detroit, chiaramente, ma numerose le dichiarazioni che riguardano il gruppo Fiat. Marchionne ha detto che il 2014 non sarà un anno di vera ripresa per il gruppo, che per quello che riguarda l'IPO, l'offerta pubblica, Fiat Chrysler arriverà entro, cioè lo sbarco in borsa della nuova Fiat Chrysler arriverà entro la fine del 2014, ma non nei primi sei mesi dell'anno. E poi una battuta di quelle che probabilmente faranno discutere, ha detto: è importante che il mio successore parli inglese, non mi interessa che parli italiano. Di questo parleremo, anche perché nel frattempo da Detroit sono arrivate notizie sugli investimenti e sui dati record per un gruppo concorrente della Fiat, che è il gruppo Volkswagen. Nel 2013 record di vendite globali, 9,7 milioni di veicoli venduti col marchio Volkswagen nel 2013, in tutto, dalla city car agli autocarri pesanti. E poi il fatto che Volkswagen investirà 7 miliardi di dollari in 5 anni per il lancio di nuovi modelli e per riuscire a vendere un milione di vetture negli Stati Uniti entro il 2018, e quindi 7 miliardi saranno solo dedicati agli investimenti del mercato americano per 5 nuovi modelli prodotti proprio per il mercato americano. Perché non saluto gli ascoltatori quando inizio il programma? Buonasera a tutti gli ascoltatori, mi sembrano altri problemi del paese, no, leggo un sms. Altri problemi del paese in questo momento. Parleremo anche in apertura di autostrade e delle previsioni del Centro Studi Confindustria sulla produzione industriale e sui prestiti alle imprese. Ahimè, la vicenda di oggi che ha riguardato il direttore della Confcommercio dell'Aquila, Celso Cioni, che si è barricato nella filiale all'Aquila della Banca d'Italia minacciando di darsi fuoco con una tanica di benzina, è una vicenda che chiaramente rappresenta un estremo assolutamente da criticare e da non esaltare e seguire. Però fummo facili profeti venerdì nel dedicare un'intera puntata ai crediti alle imprese, per le piccole imprese, piccolissime imprese, perché è chiaro, e questo dovrebbe essere anche compito della politica attraverso l'attività di moral suasion, come si chiama in gergo, è chiaro che assistere in maniera così passiva a dati continui di un calo dei prestiti, delle banche alle imprese, che è 4 volte più alto come calo rispetto al calo dei prestiti delle banche alle famiglie, beh, prima o poi questo tema va affrontato prima che scoppi il bubbone, e non si può, lo dico alle banche, di cui conosciamo tutte le ragioni, vediamo le sofferenze record e quant'altro, ma non ci si può trincerare solo con la spiegazione che le imprese chiedono meno soldi perché hanno meno investimenti. È sicuramente vero, ma è una parte della verità. Facciano un'analisi di coscienza, facciano i responsabili del mondo bancario italiano, non i direttori di filiale che eseguono gli ordini della casa madre, un esame di coscienza, si mettono la mano sul cuore e dicono se veramente è solo per questo motivo o se c'è anche dell'altro, anche dell'altro, ossia una tendenza delle banche a investire in strumenti molto più facili, i depositi overnight alla Banca Centrale Europea piuttosto che i titoli di Stato, e forse un'incapacità, una non volontà nell'accettare una componente di rischio nel prestare i soldi alle imprese che vanno sui mercati, che hanno piani di sviluppo. Se no toccherà mandare in onda di nuovo il Benigni sulle melanzane e sul prestito in banca. È inutile chiedere una garanzia alta o più alta del prestito che si ottiene, se uno i soldi li avesse non andrebbe a chiederli in banca. Per cui, ripeto, senza voler essere manichei, sicuramente gli incagli e le sofferenze sono a livello altissimo, sicuramente molti imprenditori piccoli, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori del manifatturiero chiedono meno soldi o li chiedono solo per pagare i fornitori o per cose, diciamo, non a medio lungo termine come piano, ma c'è anche una, diciamo, tendenza a non volerli dare questi soldi, e questo quando sei piccolo e quando, diciamo, c'è da collarsi un certo rischio. Beh, la sana e prudente gestione di una banca non vuol dire non scommettere con un minimo di rischio sul futuro e sulla capacità dell'imprenditore. Detto questo, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo subito con le notizie in breve dalla borsa. È positiva a Milano, devo dire come nel resto d'Europa, un po' di più a Milano, più 0,60%, con Parigi che fa più 0,30%, Francoforte più 0,30%, Londra più 0,30%, l'America perde lo 0,10%, Milano particolarmente bene Saipem, più 5%, Azimut più 4,60%, Banco Popolare più 3,5%, ST Microelectronics più 3%, Buzz Unicem più 2,60% come la Pop Milano, Ubibanca più 2,5% come Mediolanum. Il 2,30 lo guadagna Mediaset, il 2,20 Campari, il 2% Unicredit, l'1,80 lo guadagna Jux, l'1,60 è il rialzo di Atlantia, l'1,5 quello di Ferragamo, l'1,40 quello della Popolare Emilia Romagna e Mediobanca più 1,30, Intesa San Paolo più 1,1, Unipolsai più 1%. Verde Gitec l'1,5 ma anche le generali, Pirelli l'1,30, Snam l'1%, Telecom lo 0,80, Tenaris lo 0,70%. Veniamo all'Italia, oggi poche notizie sul fronte internazionale. Il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, ha paventato ancora presenti i rischi di una leva finanziaria. I rischi di ripercorrere una strada fondata sulla leva finanziaria con conseguenze globali sull'economia sono tuttora presenti. E sempre Squinzi ha ricordato che l'ipotesi di tornare alla lira, che un'ipotesi che circola molto in alcuni ambienti, mi chiedete perché non invito, abbiamo invitato i vari Bagnai, ma abbiamo invitato anche teorici della decrescita, Bagnai, dopodiché, voglio dire, dico solo una cosa, i teorici, i Barnard, i Bagnai, i teorici dell'uscita dolce, facile dall'euro, dovrebbero spiegare agli ascoltatori e ai loro lettori non solo quale vantaggio ne avrebbero le nostre esportazioni, non solo quale svantaggio ne avrebbero le nostre importazioni, cioè l'inflazione dove salirebbe, visto che molti beni si pagano in dollari e a quel punto avremmo, se ho ben capito, una lira anche contro un euro forte del centro Europa, e già questo creerebbe un'inflazione altissima. Non solo quanto ci costerebbe il nostro debito, cioè dove andrebbe lo spread, quanti sarebbero gli interessi, visto che il nostro debito tornerebbe a essere in lire, non più in euro, quindi sarebbe leggermente, per essere ironici, meno affidabile, ma dovrebbero spiegare, se hanno veramente la coscienza per farlo, che cosa capiterebbe ai milioni di mutui degli italiani, perché poi su questo io sento un silenzio assordante. Allora, quando andate in televisione a farvi belli con questa ipotesi strampalata, se non criminale, dell'uscita dell'Italia dall'euro e del ritorno alla lira, spiegate agli ascoltatori e ai lettori che cosa capiterebbe ai loro mutui a tasso variabile, ma anche a tasso fisso, e vale anche per il Movimento 5 Stelle, che su questo sbandiera tesi così, a mio avviso, da bar. Non ho nessun problema a dirlo, abbiamo difeso il Movimento 5 Stelle molte volte, elogiato alcune sue iniziative, posso anche criticarlo. Ritengo che sia un atto intellettualmente criminale raccontare, magari a persone che non hanno gli elementi per valutare tutta la situazione, che si può bellamente, tranquillamente, come una passeggiata, uscire dall'euro e non spiegare tutta la verità. Allora andate a spiegare agli ascoltatori banalmente cosa capiterebbe ai mutui a tasso variabile ancorati all'Euribor, che schizzerebbero da il 5, 6, 7% a percentuali doppie o triple se il riferimento fosse la lira. Poi vediamo se avete tutto questo seguito. Giustamente è arrivato il genio, basterebbe far comprare il debito agli italiani, scrive un ascoltatore al track. Ma certo, ma come abbiamo fatto a non pensarci prima? Siamo tutti qui pronti a comprare il nostro debito. Eh no, perché no? Che già comunque in buona parte appartiene agli italiani. Ma certo, riempiamo le famiglie italiane di BOT e BTP, così se poi capita qualcosa andiamo a distruggere il risparmio diretto degli italiani. Ma genialata così. Iniziamo bene la settimana, vai. Si chiama in inglese moral hazard, cioè riempire i portafogli e i risparmi delle famiglie italiane di debito italiano, oltre a una misura ragionevole, significa che qualunque scossone poi sul debito italiano, sui BOT e sui BTP, andrebbe a distruggere il risparmio privato degli italiani che, seppur ben intaccato dalla crisi, ancora, diciamo, è un elemento di forza di questo paese. Altra cosa, lo dico, poi chiudiamola qua, è criticare il fiscal compact, quell'accordo folle firmato da Berlusconi e Tremonti quando erano in ginocchio di fronte a Angela Merkel, che vorrebbe dire da 2015 iniziare a tagliare il debito italiano di 48 miliardi all'anno per 20 anni. Quella è una follia e siamo d'accordo. L'Europa, l'euro a trazione tedesca è una follia e siamo d'accordo. Però non è che butti via il bambino con l'acqua sporca. Cosa fai? Esci dall'euro perché la Germania ha troppo potere? Mi ricordo il marito cornuto che si taglia, diciamo, una parte delicata dell'organo riproduttivo. Comunque, andiamo avanti. Il presidente Confindustria Squinzi ha detto: se torna la lira i costi e i rischi saranno enormi e le incognite innumerevoli. Certo è, continua Squinzi, che la povertà e la crescente disoccupazione sono il perfetto brodo di una cultura dello scetticismo antieuropeo. Mi dispiace, sono d'accordo. Perché è chiaro che il movimento antieuropeista è frutto delle politiche miopi di una Germania che teme la Repubblica di Weimar non conoscendo la storia, tra le altre cose. Continuiamo a dirlo da 2 anni. E anche Letta ogni tanto, visto che dice di avere d'acciaio, quelle cose lì, vada a Bruxelles e ponga quelle cose lì d'acciaio sul tavolo. Oggi non ho molta voglia di mediare linguisticamente, mettiamola così. La vicenda autostrade. Allora, oggi il ministro alle infrastrutture e trasporti Maurizio Lupi ha detto, commentando la questione dell'aumento del pedaggio della rete autostradale, ha detto: come ministero e come governo dobbiamo avere la capacità di riaffrontare questi temi e questa settimana inizieremo a dare un primo segnale. Ho posto la domanda sul perché nel trasporto pubblico ci sia un abbonamento, ma non c'è la possibilità di farlo sulle autostrade per le categorie che le usano di più. In effetti, uno che va spesso in autostrada dovrebbe avere quantomeno un abbonamento, non so, 9, paghi 10, paghi 9 pedaggi, ce n'è uno gratis, che ne so. Ma la cosa interessante è un'altra, perché questo è il paese delle mille verità, è che il gruppo Autostrade sostiene che gli ultimi aumenti sono giustificati dal fatto che le tariffe italiane sono comunque le più basse d'Europa. L'ha detto il numero uno, l'amministratore delegato Giovanni Castellucci, a Mix 24 con Giovanni Minoli qui a Radio 24 venerdì scorso. L'osservatorio sulle liberalizzazioni ha detto che i rincari non sono giustificati. Lei cosa risponde? Beh, di osservatori ce ne sono tanti in Italia, forse uno dei problemi di questo paese. Ah, sì. Posso solo dire che le tariffe italiane sono le più basse d'Europa, di gran lunga, e le tariffe di Autostrade per l'Italia sono le più basse fra i concessionari. E il problema degli aumenti non è stato particolarmente il nostro, anzi è stato quello di altre concessioni, particolarmente nel nord, che hanno avuto incrementi molto importanti. Sì. Allora, a dire il vero, uno basta che vada sul sito della Michelin, così facciamo pubblicità, via Michelin, e non è che i pedaggi italiani risultino, magari è sbagliato il sito, particolarmente convenienti. Per carità, le caratteristiche del territorio, abbiamo molte montagne, colline, tante gallerie rispetto a altri paesi, tutto bene sui costi, si fa per dire, però non diciamo che sono le più convenienti. In Francia, per andare da Parigi a Lione sono 465 km, cito il testo della via Michelin, quindi del sito della Michelin, costa in pedaggio 33 euro. Ok, Parigi-Lione, 465 km. La tratta Barcellona-Madrid, quindi prendiamo le due città principali di questi paesi, sono 620 km, costa 30 euro. Allora, la Milano-Firenze, che non è ancora la Milano-Roma, ma la Milano-Firenze costa 30 euro e sono solo 347 km. La Milano-Roma, così la paragoniamo alla Parigi-Lione, alla Barcellona-Madrid, costa 38 euro, non mi sembra proprio conveniente. Se uno poi fa la tratta Bologna-Napoli, di euro ne paga 39, i chilometri sono 587, quindi le più basse d'Europa rispetto alle francesi e alle tedesche? No, non mi sembra. Ah, poi è interessante quantifica, diciamo così, oggi il mitico Sergio Rizzo del Corriere della Sera, perché lui ha fatto il calcolo di quanto sia cresciuto il pedaggio autostradale dal 1999, data della privatizzazione, secondo molti sbagliata, un regalo ai privati, ma adesso non entriamo in questo tema, dalla privatizzazione ad oggi i pedaggi autostradali sono cresciuti in media del 66%, a fronte di un'inflazione cresciuta del 37%. Dal 2000 al 2012 gli utili di Autostrade per l'Italia hanno superato i 7 miliardi di euro, che siamo contenti, per carità, solo che lo Stato ne ha incassati, per non vendere ma dare, diciamo, in concessione, 3 miliardi e 4. Il conteggio non tiene conto, tra l'altro, degli ultimi aumenti scattati con il nuovo anno, e obiettivamente le cifre non sembrano giustificate dagli investimenti. Nel 1970 la rete italiana, quando era ancora tutta dello Stato, era la seconda rete in Europa per estensione, rete autostradale dopo la Germania, adesso è la metà di quella spagnola, non nemmeno quella tedesca, quella spagnola, nonostante i 6.000 veicoli al chilometro contro i 3.300 veicoli della Francia e i 2.300 della Spagna. Allora, possiamo ragionare su tutto, però insomma, dire che abbiamo i pedaggi più bassi e che tutti questi, e che un aumento del 67% dal 99 ad oggi contro un'inflazione del 37% sia giustificato, a me sembra un po' tanto. Ripeto, poi gli utili sono stati del gruppo Autostrade, siamo contenti, però hanno superato i 7 miliardi di euro. Allora, chiaramente non avevo dubbi, i fan, ma è giusto che ci siano i fan di Bagnai e di Barnard, mi scrivono, lei disinforma, ha una responsabilità in quello che dice, legga i libri di Bagnai e di Barnard. Voglio dire, nella vita è bello essere fan di tutto, uno magari poteva ritenere che Allegri fosse un grande allenatore del Milan, ma che me frega. Una cosa ve la dico chiaramente a chi dice lei non è imparziale, no, non sono imparziale, è una mia personale opinione, ma non sono imparziale. Okay, cerco di essere onesto, ma imparziale non so cosa voglia dire sul tema dell'euro. Cioè, quando sento tesi bellamente divulgate che la soluzione di tutti i mali di questo paese non è uno snellimento della burocrazia, non è una riduzione della corruzione, non è un taglio della spesa pubblica, non è l'andare contro le lobby di interessi del privato, del pubblico, non mi interessa, ma è uscire dall'euro, come se, a me sembra che si dia la colpa al termometro della febbre, ed è un vizio italiano, no? Già Mussolini ci provoca l'autarchia, okay? E quindi non sono imparziale, lo ammetto, ce lo confesso, penso che sia una grandissima ata, va bene? E poi a chi mi dice perché li abbiamo invitati, ma qualcuno si ricorda le interviste a Bagnai o dice non dovrei paragonare Bagnai e Latouche, ma quando a Latouche chiedemmo ma la decrescita è felice, come si giustificano i milioni di disoccupati nel frattempo mentre le aziende chiudono e tutti siamo più contenti che abbiamo più tempo libero, mi disse beh ci vorrà un periodo di assestamento, e lì cosa facciamo, mettiamo i militari per strada? Poi mi sembra che alla decrescita ci stiamo arrivando con i numeri che abbiamo sulla produzione industriale, non vedo tutta questa felicità in giro. Poi magari i cassi integrati infelici li conosciamo solo noi, i disoccupati incavolati li conosciamo solo noi, quindi ma per favore dai. Luca Paolazzi del Sole 24 Ore, direttore del Centro Studi del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Oggi mi becchi un po' così Luca, però insomma sta cosa è uscita dall'euro, non ne posso più. Vabbè, magari tu sei favorevole a questo punto. Risolviamo i mali del paese con l'uscita dall'euro. Al di là della battuta, noi fummo facili profeti venerdì nel dire attenzione, i dati di un continuo e drammatico calo del prestiti alle imprese da parte delle banche non possono essere archiviati solo come la statistica della Banca d'Italia. È ovvio che il gesto di oggi di Celso Cioni, direttore della Confcommercio, è un gesto estremo che non va seguito, che va condannato, non ha senso barricarsi dentro la Banca d'Italia con una tanica di benzina e minacciare di darsi fuoco. Però a me quello che ha lasciato esterrefatto, per modo di dire, è che voi avete diffuso in questi giorni una previsione anche sul 2014 e anche per il 2014 ritenete che la caduta dei prestiti bancari alle imprese continuerà. Luca. Sì, assolutamente. D'altra parte, permettimi di indicare che anche la Banca d'Italia prevede una flessione ulteriore dei prestiti anche più forte di quella che mettiamo noi, nel senso che al quarto trimestre 2014 c'è una variazione tendenziale ancora negativa dell'1,5%, mentre per noi è negativa in media quest'anno di un punto percentuale, grosso modo, quindi siamo meno pessimisti. D'altra parte entriamo appunto in quest'anno ancora con gli effetti della restrizione passata e con questo trascinamento negativo, e solo con il rafforzarsi del miglioramento congiunturale del paese, solo con il consolidarsi della fiducia nel sistema bancario da parte degli investitori grazie alla valutazione della BCE, che però terminerà solo a novembre di quest'anno, e con un miglioramento appunto anche della raccolta obbligazionaria grazie ai maggiori redditi disponibili delle famiglie, possiamo pensare a una minor prudenza del sistema bancario nell'erogare i prestiti, e solo per questo vediamo una svolta nel 2015 e non prima. E questo non è, tra l'altro voi avete fatto il calcolo, come tu accennavi, ho detto al direttore del Centro Studi del Sole 24 Ore, ho fatto una crasi tra la tua esperienza precedente e quella attuale, chiedo venia, chiaramente tu sei direttore del Centro Studi di Confindustria. Dicevo, voi avete fatto una stima che la caduta è stata del 10,5%, ossia sono 96 miliardi in meno erogati. Allora, visto che anche per il 2014 ritenete che vi sarà un calo, secondo te è pensabile che questo calo possa essere giustificato solo, non dico che non sia vero, dal fatto che le imprese chiedono meno soldi perché l'economia è ferma, o li chiedono per cose, diciamo, non progettuali, come il pagamento dei fornitori, degli stipendi, che è poi la spiegazione che danno le banche? Beh, diciamo che in questa fase sicuramente c'è anche una debole domanda di credito, però è anche politica delle aziende di credito restringere i criteri di erogazione, per cui c'è, diciamo, una certa percentuale di imprese che hanno chiesto prestiti e a cui non è stato concesso, non è stato erogato quanto chiesto, una percentuale che è salita negli ultimi mesi e continua a essere abbastanza elevata. C'è, diciamo, poi inoltre un altro aspetto, ed è il fatto che le banche devono cercare di avere il più possibile bilanci che si presentino al meglio, appunto, in vista di questa valutazione da parte della BCE e soprattutto in termini di ratio, cioè di rapporto fra impieghi e capitale, o meglio fra capitale e impieghi, capitale inteso come parti di azioni e altri attivi che vengono considerati forti. E questo rapporto è migliorato anche grazie al fatto che le banche hanno spostato fondi dall'erogazione di prestiti al sistema economico a titoli di Stato. Perché questo accade? Perché i titoli di Stato sono considerati senza rischio e quindi hanno ponderazione zero secondo, diciamo, i calcoli di Basilea, certo. mentre i prestiti alle imprese e alle famiglie, più quelle delle imprese, meno quelle delle famiglie, se questi ultimi sono prestiti garantiti da ipoteche, richiedono invece un accantonamento di capitale. Ecco, su questo mi riaggancio anche al tema dell'euro, perché un conto è criticare, e l'abbiamo fatto in decine di puntate, l'implementazione, come dice chi ha studiato, cioè l'avvio di Basilea 3 in un momento di crisi dell'area euro, e andava a restringere, come tu hai ricordato bene, la possibilità per le banche di prestare soldi, ammesso e non concesso che li volessero prestare. Però se tu investi in un bot non devi accantonare, adesso la faccio un po' breve, se presti un imprenditore devi mettere da parte delle riserve, è chiaro che la banca è meno invogliata, e da più parti si disse aspettiamo, sospendiamo Basilea 3, l'Europa è il continente in maggiore recessione tra quelli sviluppati, non diamo uno strumento che tenderà a restringere il credito alle imprese. Non c'è stato verso, perché poi vanno avanti gli euro tecnocrati come dei panzer. Però perché secondo te, Luca Paolazzi, al di là di quello che diceva oggi Squinzi, cioè la disoccupazione e l'aumento della povertà sono il brodo in cui naviga la cultura anti-euro, perché è così sexy, fa così, vedo anche i messaggi di insulti che mi stanno arrivando, è così appealing parlare di un'uscita dall'euro come se non vi fossero costi, visto che i costi noi li sappiamo, al di là di quello che dicono certi profeti? Ma secondo me, perché come dicevi un po' all'inizio, prima del mio collegamento, c'è la ricerca di un capro espiatorio, di sofferenze che sono anche molto elevate, che stanno appunto nell'alta disoccupazione, ma anche nella chiusura di imprese, e questo, diciamo, induce a trovare facili soluzioni. Ecco. Penso che questo dell'euro sia una falsa, diciamo, falso obiettivo, perché è colpa anche, diciamo, del modo in cui l'Europa ha gestito la sua crisi, sia del modo in cui gli stati nazionali hanno indicato nell'Europa le ragioni, diciamo, della necessità di cambiamento all'interno del paese. In realtà noi, come dicevi tu, dovremmo affrontare tutte queste cose, dall'alto debito pubblico alla riforma del mercato del lavoro, all'efficienza della pubblica amministrazione e quant'altro, per migliorare il nostro benessere, indipendentemente da essere parte o meno di una unione monetaria. Però è vero che l'Europa ha delle responsabilità. Ma ne è di enormi, di enormi. Non intesa diciamo come necessariamente come Commissione Europea, anzi la Commissione Europea ha cercato per quanto ha potuto di tenere la barra un po' in un'altra direzione, ma soprattutto i governi nazionali di aver cercato di impostare una politica di tipo deflazionistica. Qualcuno doveva fare un aggiustamento diverso, nel senso che doveva, mentre Spagna, Portogallo, Italia e quanti altri dovevano tirare le cinghie, qualcun altro aveva la possibilità e ha tuttora la possibilità di spendere un po' di più, di espandere e quindi compensare, alleviare questi sacrifici. Però non credo che uscire dall'euro ci risolva qualcosa, anzi porterebbe a conseguenze piuttosto pericolose per il paese, a cominciare dal fatto che dovremmo cominciare a ripudiare il debito pubblico e creeremo diciamo una catena di fallimenti finanziari uno dopo l'altro. Sì, poi c'è un punto che mi è poco chiaro, ma tutti questi profeti dell'uscita dell'euro come soluzione dove erano fino al 2008? Perché l'euro andava benissimo fino al 2008. Oddio, non andava benissimo a noi quando abbiamo visto il mondo del commercio raddoppiare la cifra un euro, 1.000 lire un euro, però andava benissimo, cioè non ho mai sentito dire usciamo dal, perché i risparmi erano tutelati, tutti vedevano un vantaggio. Adesso che la crisi c'è, l'ha scatenata la finanza anglosassone, però poi noi l'abbiamo amplificata, noi come europei, nella cattiva gestione che tu ricordavi, all'italiana il problema qual è? È l'euro, il problema è il termometro, non la febbre, cambiamo termometro, così passa la febbre. Contenti così, se vi piace così. Grazie Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria. Rimandiamo Benigni sul traffico a Palermo, perché mi sembra lo stesso ragionamento. Ringrazio per gli insulti, non c'è problema, siamo pagati anche per questo, però probabilmente il partito anti-euro sarà un partito molto forte in molti paesi europei a queste prossime elezioni europee, e il ringraziamento va alla Germania, all'Olanda, a tutti i paesi del nord che non hanno voluto ascoltare manco una volta quando gli si diceva va bene il rigore ma attua anche politiche per la crescita, piani europei di investimento, eurobond, chiamali come vuoi tu, scorporare tra deficit buono e deficit cattivo. Ok, perché poi è chiaro che la gente ragiona con la pancia, soprattutto quando ha fame ed è disoccupata. E quindi ringraziamo Berlino, Vienna, Amsterdam, Helsinki e tutti sti geni del nord Europa. Però abbiate pazienza, i 20 anni di mancate riforme di questo paese, il ventennio perso da questo paese in cui la produzione industriale continuava a calare, in cui la burocrazia continuava a aumentare come inefficienza, come peso economico, in cui la pubblica amministrazione non tagliava un euro, in cui i partiti mangiavano quello che hanno mangiato e hanno continuato a mangiare, in cui le riforme venivano solo annunciate e non venivano mai fatte. Questi 20 anni persi dall'Italia sono colpa dell'euro? A 7:44 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, ossia l'ignorante per molti di voi per quello che sostengo sull'euro. Guardate, facciamo una cosa, tanto adesso ne parleremo perché arriveranno le elezioni europee, però uno spunto che traiamo dal Sole 24 Ore, oltre ai mutui, oltre a quello che capiterebbe ai debiti attualmente in euro e poi in lire, oltre a quello che capiterebbe all'inflazione. Allora, i debiti dei grandi gruppi italiani, Eni, Enel, Finmeccanica, sono tutti vincolati, sono accordi internazionali e sono in euro. No, lo dico, giro questa domanda ai vari Bagnai, Barnard e a tutti sti geni che vedo circolare in rete sugli SMS. Allora, questo lo sapete immagino, no? Sono debiti che resterebbero in euro anche dopo, perché sono firmati con accordi internazionali e resterebbero in euro. Se noi uscissimo dall'euro, il giorno dopo chiudiamo, o meglio nazionalizziamo Enel, Eni, Finmeccanica, per un semplice motivo: che questi grandi gruppi farebbero profitti in lire e dovrebbero pagare debiti in euro. Ma avete presente cosa vuol dire fare utili in lire e dover pagare il debito in euro, con quello che capiterebbe al rapporto euro-lira? No, lo lancio come spunto, visto che qua abbiamo tutti geni nati imparati, che sanno che la soluzione di questo paese, del suo immobilismo, delle sue mancate riforme, si chiama uscire dall'euro. Ma che bello, sempre colpa di qualcun altro in Italia, La perfida Albione, quando arriverà la perfida Albione? Allora, la borsa per quello che riguarda Milano, più 0,66%, Parigi più 0,30%, Francoforte più 0,40%, Londra più 0,20%, l'America meno 0,12%. I titoli migliori: Saipem più 4,90%, Azimut più 4,60%, Banco Popolare più 3,30%, ST Microelectronics più 3,14%, UBI Banca più 3%, Mediaset più 3%, Pop Milano più 2,70%, Boots Unicem più 2,70%, Mediolanum più 2,40%, Campari più 2,30%, Atlantia più 2%, Yux più 1,90, Unicredit più 1,90 e Pop Emilia Romagna più 1,70. Perde invece Generali meno 1,60, Pirelli meno 1,1, G-Tech meno 1%. Ciao Condina, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, l'unica negativa è il Monte dei Paschi, era il Monte dei Paschi, poi ha chiuso leggermente in parità, più 0,1. Domani c'è un consiglio di amministrazione decisivo per i vertici della banca, dopo lo scontro anche tra vertici della banca e Fondazione Monte dei Paschi. Azimut. Eh sì, Azimut invece, come dicevi tu, è proprio dall'altra parte del listino, è un titolo che oggi ha guadagnato il 4,6%, secondo soltanto a Saipem, che ha guadagnato il 4,8%. Qui, come per quanto riguarda Mediolanum, venerdì scorso c'entra il dato sulla raccolta record nel 2013, che è arrivata a 3,2 miliardi per quanto riguarda Azimut, in crescita, pensate, del 120% rispetto al 2012, quindi praticamente più che raddoppiata. E per segnalare, appunto, diciamo, di Mediolanum, che aveva dato i propri numeri sulla raccolta venerdì, oggi sale ancora e guadagna il 2,4%. Qui siamo, per quanto riguarda le quotazioni, ai massimi dal 2007. Ancora per quello che riguarda i titoli, Saipem più 4,90%, ma tra l'altro Azimut fa il paio con Mediolanum, cioè chi raccoglie risparmio va particolarmente bene, più 2,40% anche Mediolanum, no? Sì, evidentemente c'è liquidità da investire. C'è liquidità, forse anche alcune letture, comprese le nostre, delle volte sono un po' fuorvianti, perché aumentano i risparmi, i depositi degli italiani in banca, però aumenta anche la raccolta, appunto, di Azimut e Mediolanum. Dopo il traffico, però, vorrei commentare Yux, oltre che Saipem, ma anche Fiat, perché oggi ne parleremo più avanti. Marchionne ha rilasciato numerose dichiarazioni dal Salone dell'Auto di Detroit. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, ciò Condina, dicevamo Snam da un lato, Fiat e Yux. Saipem, hai ragione. Sì, fa più 4,8%. Diciamo, qui notizie particolari oggi non ce ne sono. C'è una notizia che risale a venerdì e fondamentalmente una comunicazione di BlackRock, che ha comunicato alla SEC sostanzialmente respingendo le accuse avanzate dalla Consob di un insider trading. Qui dobbiamo tornare allo scorso 25 gennaio, quando BlackRock di fatto liquidò sul mercato il 2-3% del capitale di Saipem, praticamente alla vigilia poi di un profit warning annunciato dal gruppo. Il gruppo sostanzialmente comunicò che tutti i propri ordini erano sovrastimati, che ci sarebbe andato incontro a un forte calo delle marginalità, e il titolo crollò in borsa. sono arrivate sostanzialmente queste dichiarazioni di BlackRock che respingono le accuse, e il titolo ha reagito in questo modo. Diciamo, gli operatori comunque non spiegano del tutto diciamo il balzo di oggi con questa comunicazione di BlackRock. Per quanto riguarda Fiat, come dicevi tu, oggi si è aperto il salone di Detroit, sono arrivate queste dichiarazioni a 360 gradi di Marchione su quella che sarà la nuova sede del gruppo. Ormai pare di capire che sarà negli Stati Uniti, anche se diciamo una decisione ufficiale sarà assunta soltanto da un CDA che si terrà a fine mese, ma quello che conta, al di là delle parole di Marchione, è anche l'opinione del mercato e degli analisti su quella che sarà poi la fusione fra Fiat e Chrysler, un'aggregazione che secondo il mercato creerà valore, che sembra comunque avvenuta a un prezzo ragionevole, sottolineano gli esperti del settore. Infine Jux, più 1,9%, qui stiamo parlando di un gruppo che fino al 23 dicembre scorso e anche dopo era cresciuto molto sull'onda del fatto che sarebbe entrato nel FTSE MIB, cioè tra i titoli a maggiore capitalizzazione di Piazza Affari. Poi a gennaio praticamente in quasi tutte le sedute erano arrivate delle vendite, per lo più dei realizzi appunto dopo la lunga corsa dei mesi precedenti, oggi invece sono tornati gli acquisti con più 1,9%. Allora, migliori e peggiori in assoluto oggi, oltre ai titoli che ho elencato, Warspace. Ma che è Warspace? Non la conosco. Tu lo... No, non ne ho idea neanch'io. Però non è scritto come guerra, è scritto con due R. Chiedo venia ai titolari, ai dipendenti. Più 35-70%. Reno De Medici più 15%. Ceramiche Ricchetti più 10%. Cell Therapeutics più 8,30%. E poi il Banco di Desio più 7,40%. Le Zucchi, dove Buffon è arrivata alla maggioranza, no? Il gruppo Zucchi, più 6,50%. Fronte opposto, Nova Re, meno 6,40%, Meridie, meno 5%, Nertronica, meno 4,70%, Monriff, meno 3,50%, Cairo Communication, meno 3%. E nel ringraziare Ceo Condina, Radio Core, Il Sole 24 Ore, noi adesso passiamo all'altro tema della puntata assieme a Fiat, e mi riferisco ad Alitalia. Allora, adesso c'è l'accusa che dobbiamo difendere l'ENI e l'ENEL e Finmeccanica. A parte il fatto che non c'è niente di male in difendere gruppi di eccellenza di questo paese, ho solo detto che avendo loro i debiti in euro con contratti internazionali che resterebbero in euro, si troverebbero con l'uscita dell'Italia dall'euro, con il ritorno della lira, a pagare i debiti in euro e a fare profitti in lire. Ma ci rendiamo conto di quello che dite ogni tanto? Solo per non fare autocritica, solo per difendere ognuno i suoi specifici interessi di categoria, di casta, di ordine, di quant'altro. E poi cosa vuol dire? Abbiamo vissuto negli anni 70 con l'inflazione a due cifre. È vero, c'era il marco, c'era il franco, c'era la lira, ma adesso sarebbe l'Italia che secondo i teorici esce dall'euro, si becca la lira. Ingegner Carlo Stagnaro, direttore ricerche dell'Istituto Bruno Leoni, buonasera. Buonasera. Io la voglio su Alitalia, ma mi dica, non so, sull'euro voi, tranquillo, magari resterò l'ultimo dei giapponesi a difendere l'euro, non questa gestione dell'euro tedesco centrica, ma l'euro. Sì, prego Stagnaro, mi dica. Beh, a me pare abbastanza evidente che l'euro ha mille problemi, ma uscire dall'euro ne presenta un milione, e per stare a quello che diceva lei prima, proprio perché abbiamo vissuto l'inflazione a due cifre degli anni 70, dovremmo essere estremamente cauti nell'invocare dei provvedimenti che potrebbero riportarci in quel mondo. Allora, lei può restare con noi anche dopo le 18, mi dicevano, per cui faccio una prima domanda e poi la riprendo dopo il GR per qualche minuto, perché in realtà voi siete usciti con una analisi abbastanza accurata per quello che riguarda l'Alitalia, nel senso non sull'Alitalia in senso stretto, ma guardando i casi esteri precedenti, per dirci, vabbè, nessuno auspica che l'Italia fallisca, ma non sarebbe il collasso del traffico aereo. Ci aiuta a capire? Sì, no, non mi scuso poi, però dopo devo lasciare perché ho un altro impegno. No, lo studio che abbiamo pubblicato, che è disponibile sul nostro sito, mette in evidenza semplicemente un fatto di per sé banale, cioè si è detto in queste settimane, in questi mesi, che l'eventuale fallimento della compagnia di bandiera avrebbe danneggiato irreparabilmente il turismo e i viaggiatori italiani, e noi siamo andati a vedere quello che è successo in altri paesi dove le compagnie di bandiera sono effettivamente fallite, dalla Svizzera al Belgio. E quello che abbiamo osservato è che a seguito di questi fallimenti, nel tempo, a volte in tempi più rapidi, altre volte in tempi relativamente più lunghi, comunque a fronte di un mercato vivace e competitivo come quello aereo, i passeggeri non venivano lasciati a terra, ma nella misura in cui c'era e c'è una domanda di essere trasportati, arrivava un'offerta alternativa. E in fondo è quello che abbiamo vissuto col fallimento, tra virgolette, della prima Alitalia nel 2008-2009, che ha lasciato a terra circa la metà della sua flotta, senza che però nessuno impedisse agli italiani di viaggiare anche con altre compagnie. Oh, adesso io poi, dopo, visto che deve andare via dopo, ricorderò anche questi casi. Questo non è per dire che si può vivere senza l'Italia, anzi noi speriamo che la compagnia si salvi, si rafforzi e abbia un alleato forte anche internazionale, però è per fare e guardare bene cosa è successo all'estero quando è fallita la compagnia di bandiera o ex di bandiera. Grazie comunque l'ingegnere Stagnaro. Adesso c'è il GR, poi parliamo di Alitalia e di Fiat, ma anche del Salone di Detroit. Il sogno di oggi, di Siete di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, è poter chiudere la vicenda all'Italia, però una risposta la devo dare anche a Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, ci conosciamo bene. Allora, ha postato, penso, un messaggio dicendo su Radio 24, la radio di Confindustria, Barisoni ha detto che è un atto intellettualmente criminale proporre l'uscita dell'euro, confermo. La radio dei padroni, quella che aveva osannato l'arrivo di Mario Monti, comincia ad aver paura. Avanti così. Allora, Salvini, l'ho cercata, era occupato, poi verrà in trasmissione quando vuole, ma abbia pazienza. Ma perché la radio dei padroni, degli industriali, come la definisce lei, dovrebbe avere interesse a restare nell'euro? Qual è il, diciamo, il disegno occulto che mi sfugge, visto che le imprese italiane da questa crisi, dall'assenza di piani europei di investimento, dall'assenza di un deficit considerato in maniera più ragionevole, cioè non solo come cosa negativa ma anche come un deficit per lo sviluppo, quello che la Germania non vuole affrontare, dall'assenza di Eurobond, stanno pagando le conseguenze? Cioè, perché le imprese italiane dovrebbero, qual è il piano occulto per cui le imprese italiane dovrebbero difendere la permanenza dell'Italia nell'euro, se non il rischio di un'instabilità, rischio, certezza di un'instabilità finanziaria totale per il nostro paese? Cioè, non capisco i vantaggi dietro questa difesa, questo complotto pluto giudaico, massonico, industriale per restare nell'euro. Mi sfugge perché gli imprenditori, che sono i primi a dover affrontare questa crisi, andare sui mercati, dovrebbero essere ideologicamente a favore dell'euro, se non invece realisticamente a favore dell'euro, ma non di questa Europa. Si può essere per l'euro ma contro questa gestione dell'Europa. Tendo conto che occorra anche un po' di distinguo, cioè non solo tutto bianco, tutto nero, però nella vita si procede anche per definizioni, non per slogan. Bene, poi ognuno può pensarla come vuole, ma sarà un tema che riaffronteremo, mi sa, nelle prossime settimane di campagna elettorale europea. Gianni Dragoni, buonasera. Buonasera. No, a te non chiedo dell'euro, hai già abbastanza problemi nel raccontare quello che sta capitando su Alitalia. Allora, prima il centro studi dell'Istituto Bruno Leoni citava vari casi di come nel passato, mi riferisco a Carlo Stagnaro, il direttore, vari casi come nel passato, cito Swissair nel 2002, Sabena nel 2001, la Spagna con Iberia nel 2010, l'Olanda che comunque è riuscita ad amministrare i passeggeri nonostante la cessione di KLM Air France nel 2003, e in Lituania comunque Fly Elal fu privatizzata, ma comunque sono aumentati i passeggeri negli aeroporti lituani, sono raddoppiati nell'arco di 4 anni, anche in Ungheria con la Malev. E questo era per dire: attenzione, dall'Italia non dipende completamente il destino dei nostri aeroporti. Citiamo il caso della Emirates, che assume 300 piloti e a Malpensa ci sono 70 candidati. Domani ne parleremo con quelli della Emirates, perché hanno un piano di investimenti molto forte sull'Italia. Questo per dire che attenzione a distinguere tra la vicenda e il destino di Alitalia e il destino del sistema aeroportuale italiano. Però con te vorrei parlare del destino di Alitalia, perché confermato alla presidenza Colaninno e amministratore delegato Gabriele Del Torchio, che è anche vicepresidente, vorrei avere notizie su Etihad, se tu ne hai. Etihad oggi ha parlato da Berlino, Etihad e socia Cavaliere Bianco ha salvato la Air Berlin, una compagnia che stava fallendo e che ha trasportato l'anno scorso più di 31 milioni di passeggeri, quindi qualche milione più dell'Italia. Il capo di Etihad, James Hogan, australiano, ha accettato di parlare dell'argomento, ha detto ma non vedo nulla a breve, cioè non 15 giorni o un mese, però non ha negato, non ha escluso che ci sia un dialogo, un contatto in corso. Quindi i contatti vanno avanti, l'Italia spera vivamente che questo socio ricco metta le mani nelle tasche profonde e versi almeno 300 o 350 milioni, però questo evento dovremo aspettare ancora alcuni mesi per vedere se si concretizza. Prima gli stessi potenziali partner di Abu Dhabi chiedono che si concluda il negoziato, confronto col sindacato su 1900 tagli, quindi un taglio pesante, sarebbe il 15% dell'attuale organico di Alitalia. E qualche perplessità ce l'hanno anche sui debiti di Alitalia, sui 400-500 milioni di debiti bancari che pesano sul conto economico. Ecco, c'è una cosa che mi sfugge, Gianni, ma l'eventuale, tu ricordavi, non è una cosa breve, però sarebbe una svolta per l'Italia se Etihad diventasse il primo azionista con il 49%, mettendo dentro 350 milioni di euro. Però che ne sarebbe dell'accordo all'Italia Air France KLM? Allora, sì, l'eventuale ingresso di Etihad, diciamo, non è imminente, però potrebbe essere questione di qualche mese. E ci sarebbe da verificare cosa ne succede, perché non c'è una stretta incompatibilità formale, perché l'accordo con Air France KLM riguarda i voli Italia-Francia, Italia-Olanda e anche il Nord Atlantico, in una joint venture a cui partecipa anche la compagnia americana Delta. Però è evidente che se Etihad dovesse fare la scelta di pompare una somma comunque importante, qualche centinaio di milioni di euro dentro all'Italia, diventandone, come hai detto bene, il primo azionista, avrebbe il 30, 40, forse 49%, di più non può avere, perché è una compagnia extracomunitaria, evidentemente lo farebbe per portare traffico attraverso il suo aeroporto RAB di Abu Dhabi, sia verso l'Europa, ma soprattutto farlo arrivare dall'Italia verso Abu Dhabi e da lì caricarlo sui suoi aerei, soprattutto verso India, Cina, Asia, Sudafrica. Quindi tra le due alleanze ci sarebbe una parte di sovrapposizione, di incompatibilità, quindi andrebbe verificato cosa succederebbe dell'accordo con i francesi. Sì, quindi tu dici non è incompatibile completamente, però diciamo non è neanche neutro, anche perché non è un mistero che in questo momento le compagnie più dinamiche, lasciando stare Cathay Pacific, quindi tutto il traffico per il sud-est asiatico e per l'Asia, sono proprio Emirates, che ormai con Dubai ha, mi sembra, 140 voli c'è 140 destinazioni, una cosa impressionante, è diventato un vero carrier della globalizzazione, e anche Etihad che vuole fare tra virgolette concorrenza a Emirates dall'aeroporto però di Abu Dhabi, quindi cioè, stiamo parlando dell'area in cui si snodano gli sviluppi e la crescita più forte del traffico aereo su base mondiale, Gianni. Sì, è come se avessimo due compagnie potentissime, ciascuna con una flotta di 100 aerei, ma per il lungo raggio, come se fossero dei Boeing 747, il vecchio Jumbo, o il Airbus 330, o Boeing 777 per dire virtuali, una Roma e una Malpensa, perché la distanza tra Abu Dhabi e Dubai e quella, anzi, sono anche più vicine rispetto a Milano e Roma. Emirates ha una flotta, ha ordinato 90 Airbus 380, cioè il super jumbo due piani, e recentemente altri 50, quindi parliamo di una quantità di aeroplani quanti nessun'altra compagnia al mondo ne ha dello stesso tipo, per cui parliamo di una rivoluzione che trasformerà profondamente, se i loro calcoli non sono sbagliati, anche gli itinerari, le rotte di viaggio di molta gente. Vabbè, certo, perché tutti faranno stop a Dubai, anche perché ha questo vantaggio di essere a metà, diciamo, tra i fusi orari dell'est, quindi Giappone, Asia, e quelli dell'ovest, no? Per cui è un aeroporto sempre aperto, per chi l'ha visto è impressionante, non si ferma mai, e sta diventando il vero hub, come lo chiamo io, della globalizzazione, cioè tu dovunque vuoi andare, in molti casi passi a Dubai e cambi aereo e vai dovunque. Ecco perché la Etihad punta a un ingresso anche in Europa. Staremo a vedere, io spero che si concretizzi il prima possibile questa offerta, anche per poter andare avanti con altrimenti uno stallo da cui non ho capito, nonostante il nuovo consiglio di amministrazione, come Alitalia intende uscire, Gianni. Il nuovo consiglio di amministrazione, che poi tranne l'ingresso dei rappresentanti dei nuovi soci, in sostanza Poste, Unicredit e Percassi, presidente dell'Atalanta, c'è un suo rappresentante, è la fotocopia, non nel numero di persone ma nei vertici, del vecchio, perché Colaninno rimane presidente, del Tokyo viene anche promosso vicepresidente oltre che amministratore delegato, quindi è una continuità, anche se Letta, il Presidente del Consiglio, quando ha detto entrano le Poste, entrano ponendo come condizione discontinuità e rinnovamento. Allora questa discontinuità e rinnovamento e anche il nuovo piano industriale si devono ancora vedere, questo è una sfida, diciamo, a cui sono tenuti i vecchi nuovi vertici, e quindi su questo c'è molto lavoro da fare. Certamente in questa situazione l'Italia è in grado di pagare, diciamo, i debiti correnti, il carburante per gli aerei, non di investire, quindi non può avere nuovi aeroplani, non può crescere, non può svilupparsi, contrariamente a quello che fanno quasi tutte le grandi compagnie e le principali low cost. Grazie, grazie a Gianni Dragoni, Radio Cori, Sole 24 Ore. Volevo dire solo 24 Ore, niente Radio Cori. Scusa per la distrazione, ma sto anche leggendo gli sms e i messaggi su Facebook, lì insomma non proprio complimenti nei miei confronti per la posizione sull'euro, va bene, ma ripeto, vi torneremo, tanto chi è convinto che uscendo dall'euro risolveremo tutti i nostri problemi può andare a dormire tranquillo, tanto il capro espiatorio l'abbiamo trovato, benissimo, dai. Adesso invece passiamo a Fiat, ma lo facciamo, Fiat è il salone dell'auto di Detroit, lo facciamo però dopo le informazioni sul traffico, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. E 20 minuti, ultima parte di Focus Economia. Allora, chiede un ascoltatore che dice: scommetto che non mi risponderà Maurizio da Vicenza. No, rispondo. Barisoni, conviene di più a noi uscire dall'euro o conviene più agli altri paesi che non usciamo? Cioè, il resto d'Europa è terrorizzato dall'Italia che esca dall'euro. Sì, poi spaccheremo le regne della Grecia, va bene, va bene. Tutti lì che temono che l'Italia esca dall'euro. Andiamo a Detroit, dove c'è l'inviato del Sole 24 Ore, Andrea Malan. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, tu tanto paghi in dollari in questo momento, problemi euro non ne hai, né euro né lire. Allora, un discreto ottimismo a questo Salone dell'Auto di Detroit, 50 anteprime mondiali, previsti quasi 1 milione di visitatori fino al 26 gennaio, con un mercato americano che ha visto risalire non di poco le vendite di auto nel 2013, più 7,5%, altro effetto di come l'America ha affrontato la crisi, di come la Germania, l'Europa, non l'ha affrontata, o l'ha affrontata in maniera, a mio avviso, sbagliata. General Motors ha fatto più 7%, Ford più 11%, Chrysler più 9%. Ma con te parliamo anche e soprattutto delle dichiarazioni di Marchionne. Abbiamo un audio preso da Marchionne proprio in conferenza stampa a Detroit. Il grandissimo vantaggio della Fiat Chrysler adesso è che, considerando la sua apertura al mondo, cosa che ho anche detto nell'intervista della settimana scorsa, ha la possibilità di comportarsi, di agire in una maniera che in un certo senso non dipende più da alcune scelte che possono essere fatte nel paese. Io l'unica cosa che ho chiesto e continuo a ripetere è questi impegni industriali che stiamo prendendo noi in Fiat Chrysler, che non vengono ostacolati, che qualcuno non ci metta i bastoni tra le ruote per cercare di portare avanti il progetto. Il progetto ha un ambito che va al di fuori dei confini italiani. Proprio il posizionamento di alcuni marchi italiani sui mercati globali, e per farlo questo abbiamo bisogno dell'assistenza di un sistema che funziona, parlo del sistema governativo, senza scegliere colori, posizionamenti, convinzioni politiche, eccetera. È un gruppo di dipendenti del gruppo FIA che si impegni come ci stiamo impegnando noi per portare avanti questo progetto. Poi ha aggiunto Marchionne: possibile un collocamento in borsa di Fiat Chrysler entro 2014. So già che, e non però nei primi 6 mesi di quest'anno, so già, Andrea, che la cosa che farà più discutere è questa frase: è importante che il mio successore parli inglese, non mi interessa che parli italiano. Andrea. Sì, diciamo che questo viene in scia a una serie di osservazioni Marchionne sulla crescente importanza del mercato americano. Sappiamo che Chrysler rappresenta oggi il grosso del fatturato del gruppo, fornisce quasi la totalità dei profitti. Marchionne ha ribadito più volte che il mercato azionario di Wall Street sarà quello dove si potranno raccogliere più capitali. Tutta una serie di cose che inducono a pensare appunto a un centro di gravità che si sta spostando verso gli Stati Uniti, e dall'altra parte, come hai ricordato tu, come ricordava lui nell'audio precedente, c'è un distacco dall'Italia e dalla sua politica, cioè è un gruppo che sente di non aver più bisogno di aiuti di vario tipo, pensiamo agli incentivi alla formazione o ad altre cose, cioè è un distacco che in qualche misura lo stesso Marchionne ha anche coltivato negli ultimi anni. Peraltro lui ha sottolineato oggi che non è molto ottimista sull'Italia e sull'Europa, proprio sul mercato dell'auto, cioè, ha detto che per quest'anno, vede una ripresa limitata ma senza grandi balzi, quindi è quasi naturale da un certo punto di vista che ci sia una maggiore attenzione a un mercato come quello americano, che, come hai ricordato tu, è cresciuto molto nel 2013 e dovrebbe crescere ancora nel 2014. Ecco, a me ha fatto anche impressione, sempre dal salone dell'auto di Detroit, il dato della Volkswagen. Insomma, ha fatto nel 2013 ha venduto 9 milioni e 700 mila vetture, se ho ben capito, dalle city car agli autocarri, ma soprattutto investirà nel mercato americano 7 miliardi di dollari in 5 anni per lanciare un nuovo SUV a 7 posti, ma al di là di questo e altri modelli. Cos'è? È un rimediare, diciamo, all'operazione Fiat Chrysler, chiedo? No, dunque, allora, Volkswagen è impegnata nell'obiettivo di raggiungere quota 10 milioni entro il 2018, probabilmente ci arriverà molto prima. Ed è impegnata, sappiamo, nella battaglia con GM e Toyota per il primato mondiale, quindi i suoi investimenti vanno visti in quest'ottica. E bisogna ricordare peraltro che la stessa Volkswagen quest'anno negli Stati Uniti è una delle poche marche che è andata male, quindi diciamo che l'investimento ha anche l'obiettivo di completare la gamma e di recuperare sul mercato americano. Non è, diciamo che quello che si può osservare a proposito di queste dimensioni gigantesche raggiunte dai leader di mercato è che il gruppo Fiat Chrysler, che venderà, ha venduto nel 2013 diciamo 4 milioni e mezzo, poco meno, di veicoli, è grande quindi meno della metà di Volkswagen e Toyota. Questo significa che anche investendo la stessa percentuale di soldi sul fatturato si investe la metà, quindi si può investire meno in nuove tecnologie, in nuovi mercati, eccetera. Per competere con questi giganti la sfida rimane, anche mettendo insieme Fiat Chrysler, molto difficile. E poi nei prossimi giorni vari modelli che verranno presentati. A chi mi fa alcune domande sul 2014, Marchionne ha detto oggi che il 2014 per l'Europa non sarà un anno di vera ripresa, si riferiva al settore auto chiaramente, ma possiamo estenderlo anche al resto dell'economia. Intanto grazie a Andrea Malani in collegamento con noi da Detroit. Ed è veramente tutto per questa puntata. Ripeto, il timore è che tutti gli ideologhi dell'uscita dell'euro vogliano nascondere problemi che questo paese non riesce ad affrontare, non vuole affrontare, dando tutte le responsabilità all'euro. Attenzione, l'abbiamo già vista, è una vecchia linea della nostra politica, dar la colpa sempre a qualcun altro per non fare le riforme, non affrontare i temi, non mettersi al passo con l'Europa. E poi si può criticare anche questa Europa, ma perché pensare che arrivi la bacchetta magica o il salvatore della patria o l'uomo della salvezza? In questo caso sarebbe la valuta della salvezza, la famosa lira che tanto bene ha fatto questo paese. Ma ne parleremo, torneremo a parlarne. Per ora un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni. Scrive un ascoltatore, beh, la battuta è anche troppo facile, l'euro ci porterà, l'uscita dall'euro ci porterà in un cul de sac, e per uscirne avremo bisogno di un sac de cool. A domani alle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.